Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città, di Firenze cioè, e raccontata da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Ricordiamo il Passaggio a Nord-Ovest va in onda in diretta il lunedì alle 14 e in replica il martedì e giovedì alle 13 e il mercoledì e venerdì alle 14. Tutto ciò su Radio Wombat, a cui potete ascoltare lo streaming, dove lo state appunto ascoltando adesso, su wombat.noblox.org. Potete anche riascoltare Passaggio a Nord-Ovest, così come tutte le altre rubriche, trasmissioni di Radio Wombat, scaricando i podcast andando nella sezione apposita podcast, appunto è la prima del menu sul sito di Radio Wombat, e scaricare il podcast. Stavolta parliamo della lotta per la casa e delle occupazioni e di difesa degli sfratti susseguenti in una parte della zona nord-ovest della città, in particolare nella zona di Novoli, via Baracca, insomma tutta quella zona, diciamo, della periferia che va da Porta Prato fino all'aeroporto di Peretola, in cui si concentrano alcune delle occupazioni più significative, alcune delle occupazioni di case più significative presenti nell'area fiorentina. E quindi siamo qui con un rappresentante dei comitati di lotta per la casa, a cui gli chiediamo alcune cose rispetto a quello che sta accadendo nel quadrante nord-ovest della città in particolare, e in generale rispetto all'interezza, diciamo, dell'area metropolitana. Quindi la prima domanda che facciamo è: quali sono e che caratteristiche hanno le occupazioni presenti nella zona nord-ovest della città? Sì, buonasera. Diciamo nel quadrante nord-ovest, quindi Novoli, diciamo Novoli Rifredi, ci sono svariate occupazioni anche, diciamo, non dico storiche, ma anche due o tre anni. Abbiamo l'Hotel Concordia in fondo a via Baracca, poi seguendo per via Baracca ci sono altri palazzi occupati a Vadi Civici, e poi in fondo, proprio vicino a Piazza Puccini, c'è una nuova occupazione, diciamo, che c'è da qualche mese, da quest'estate, che è l'occupazione dove trovano casa i rifugiati politici somali sgomberati invece dal centro, che è un'occupazione importante della Unipol SAI, di proprietà della Unipol SAI, dove appunto hanno trovato casa questi rifugiati politici, e che è anche la sede attuale dei comitati di lotta per la casa, dove vengono fatte le riunioni, dove si cerca di organizzare tutti quelli che sono i bisogni del quartiere rispetto al problema abitativo, e in generale tutti gli sportelli sulla lotta per la casa. Altra occupazione importante che abbiamo sempre in via Baracca è un'occupazione di via Carissimi, che è appunto una traversina di via Baracca, dove lì abbiamo occupato ormai da due anni, se non sbaglio, appartamenti, forse di più, comunque un'occupazione importante, perché lì ci trovano casa delle famiglie migranti italiane, sono appartamenti che erano della Cassa di Risparmio, anzi no scusate, del Monte dei Paschi di Siena. Questa è un'occupazione molto importante, perché appunto per noi significa quello che è veramente la riappropriazione della ricchezza, delle banche che lasciano vuoti gli appartamenti. Nel quartiere di Novoli ci sono tantissime case vuote, tantissime case di assicurazioni, fondi immobiliari, banche, che vengono lasciate vuote, e che queste famiglie, col sostegno della lotta per la casa, hanno rioccupato, e che stanno portando avanti una battaglia da anni importante, che dice che si vuole l'assegnazione del patrimonio delle banche sfitto alle famiglie a dei prezzi che si possono pagare. Questo poi è in generale la rivendicazione della lotta per la casa attualmente in città, per cui stabilire dei contratti di affitto veri che le famiglie riescono a pagare, e su questo sono fatte iniziative importanti. Siamo andati anche a Siena al Monte dei Paschi a fare una protesta con queste famiglie per dire che vogliamo queste case. Comunque nel quartiere di Novoli l'occupazione abitativa continua a rappresentare l'unica alternativa per un tot di famiglie che vivono l'emergenza abitativa. Un quartiere dove ci sono dove si vivono gli sfratti, molte sono le manifestazioni che l'hanno attraversato. Vai Carlo. Ci può dire un po' la tipologia di queste occupazioni? Sono, e quindi la proprietà l'ha già un po' spiegato, la tipologia, nel senso sono palazzine che da quanto sono sfitte, se sopraggravava o una speculazione edilizia e via dicendo. E anche quella menzionata all'inizio rispetto ai Concorde, un'occupazione vicino all'aeroporto, per intendersi in fondo a via Baracca, ecco. Sì, ogni occupazione ha una sua storia e ha una sua proprietà, diciamo. Noi come obiettivo in generale si cerca appunto di colpire verso l'alto, per cui proprietà ricche, proprietà inadempienti che tengono vuoti gli stabili da anni. Ora, il Concorde era un albergo di proprietà di una multisocietà, diciamo, che era fallito, che era rimasto vuoto per 4-5 anni, su cui stavano delle compravendite, non si capiva bene, poi alla fine praticamente tutta la società è fallita, l'albergo era completamente abbandonato, ci dormivano dentro spacciatori o roba del genere, è stato occupato da anni, lì ci sono stati gravi problemi sugli allacci della luce, ma questo c'entra e non c'entra. E niente, lì ci trovano casa quasi un centinaio di persone, diciamo, molti minori, famiglie migranti di vari paesi, molti lavoratori. Che è successo? Non hai scusato lei. No, mi dica che non ha fatto un cazzo. Vabbè. No, va bene, anche se si sente lo taglio sto pezzetto. Guardavo quanti minuti lì erano, più o meno a 7-8 minuti. Vai, si mette la canzone. E quindi quella lì è un'occupazione importante, perché comunque sta in quel territorio lì, un po' soggetto appunto a speculazioni. Là sappiamo, no, anche la radio si sarà occupata di aeroporto, inceneritore, eccetera. Per noi è un presidio importante comunque di resistenza nel territorio. Ovviamente ci sono dei problemi, io non lo nascondo, che le occupazioni abitative non sono la soluzione finale al problema dell'emergenza, perché anche al Concorde si ha dei problemi strutturali legati a quello che è lo stato di un edificio abbandonato, che con le mille difficoltà si cerca di mettere a posto, però allacci comunque non regolari perché lo stato non ti permette di fare allacci, problemi idrici perché non c'è manutenzione sulle tubature e quant'altro, riscaldamento che non si può attaccare, cioè i problemi esistono. Quello è noi quello che comunque si chiede è sempre di pretendere soluzioni anche dalla controparte. Questo è un discorso importante, perché l'occupazione è un rifugio, è una sicurezza, è un presidio anche politico, però non può finire lì la lotta per la casa, altrimenti, anche perché ora la fase insomma poi è anche complicata. Altri palazzi in via Baracca sono proprietà veramente di fondi speculativi. Quello della serie vicino a Piazza Puccini è proprio un posto costruito, una speculazione di un fondo assicurativo della Unipolsai, quindi legata agli interessi forti del Partito Democratico in questa città, un fondo costruito e mai aperto. È proprio un valore per loro immobiliare, un numerino, quindi giustissimo occupato, giustissimo di prendere case per i rifugiati politici, che invece sono tutti i giorni vittime della macchina dell'accoglienza mangiasoldi pubblici. E poi ci sono situazioni particolari, come per esempio un via Castelnuovo Tedesco. Sì, via Castelnuovo Tedesco è proprio l'emblema del marcio legato al PD che c'è in questa città. Lì si sta parlando di alloggi che dovevano essere calmierati secondo delle regole, diciamo, in un bando vinto da alcune famiglie, diciamo, in fascia grigia, nel senso quelle che non potevano accedere al bando di casa popolare, ma che avevano comunque redditi bassi per entrare in questo tipo di alloggi. Il punto è che c'è stato proprio uno scambio, un mercimonio, come diceva Lorenzo, fra diciamo l'amministrazione pubblica e la Baldassini e Tognozzi, che è una grande società truffaldina, direi, del mattone di Firenze, per cui praticamente sono stati concessi sgravi fiscali ai costruttori per costruire delle palazzine dove dovevano essere alloggi calmierati, quindi affitti che per me calmierato vuol dire 200-300 euro al mese per una famiglia. Invece dopo tutto questo scambio economico, le famiglie si sono trovate a pagare chi 6, chi 700 euro per una serie di vincoli e robe del genere. Ora che succede? Praticamente questo contratto, che è già una truffa, va a scadere, sta finendo proprio in questo momento, si sta parlando di qualche mese, ora adesso non so di preciso, per cui a marzo scaderà. Noi abbiamo già difeso, perché ovviamente lì gli inquilini, in sostegno appunto con la lotta per la casa, hanno iniziato l'autoriduzione, hanno smesso di pagare degli affitti che erano illegittimi, chi perché non poteva pagarli obiettivamente, chi perché ha scelto di non essere preso in giro. Ovviamente questo ha portato agli sfratti per morosità, questi sono sfratti particolari, poi in tutto il quartiere ci sono sfratti per morosità ovunque, però questi sono sfratti particolari perché derivano proprio da questa presa in giro, per cui noi si siamo difesi per ora tutti gli sfratti. Ovviamente la controparte ha paura perché sa che c'è il culo sudicio sulle case di Castelnuovo Tedesco, abbiamo fatto anche attraverso dei consiglieri, delle vertenze in consiglio comunale eccetera, però adesso si arriva diciamo alle porte coi sassi, perché quello che dovrebbe succedere è che l'immobile costruito grazie a fondi pubblici riparserà nelle mani della Baldassini e Tognozzi, grande speculatore, e gli inquilini verranno sfrattati, chi per finita locazione, chi per morosità. Noi su questo si darà battaggio. Ci sentiamo ora un pezzo musicale, sono i Clash con I Fall the Law. Cominciamo l'intervista dopo averci sentito il pezzo dei Clash, e dall'aspetto occupazione delle case passiamo all'aspetto della difesa degli sfratti. Quindi chiediamo, quanti sono più o meno in città gli sfratti programmati o che dovrebbero essere eseguiti nei prossimi mesi, una cifra più o meno, e se nella zona, nella parte nord-ovest della città, quella che stiamo trattando, ci sono in che forma, diciamo, se non altro molti, pochi, in che percentuale, via dicendo. Sì, cioè sfratti a Firenze diciamo vanno fra i 200-300 in mese, una stima ovviamente così di massima. Settore nord-ovest è interessato da questo fenomeno anche perché gli affitti, cioè il problema è il costo degli affitti per gli sfratti, e comunque cioè territorio nord-ovest è un territorio dove gli affitti costano comunque tanto, cioè nonostante sia in periferia il costo degli affitti è alto, per cui le famiglie si trovano spesso ovviamente in situazioni di morosità per cause di perdita del lavoro, perché non si possono sostenere questi affitti, per cui c'è una incidenza molto alta in quel quartiere in generale. Noi ovviamente si difende una piccola parte di questi sfratti, quelli che si rivolgono comunque agli sportelli, che hanno voglia di portare avanti un percorso. Ovviamente noi, cioè, si cerca di rimandare lo sfratto, ma con un'impostazione, un'avvertenza che ci permetta, diciamo, di passare da, appunto, dallo sfratto alla casa popolare. Questa è la richiesta che noi facciamo all'amministrazione pubblica. Ora, il comune ovviamente sappiamo che sta latitando, però dopo la spinta anche dei movimenti, anche perché comunque per loro ha un costo politico sfrattare le famiglie, sono arrivati a dire che comunque c'è necessità di alloggi volano, loro chiamano così, per passare da casa a casa. Questi alloggi volano, la Funaro, l'assessore ha promesso 350 alloggi, di questi 350 alloggi non se ne è visti manco uno, per cui cioè siamo su una situazione abbastanza critica, anche perché adesso stanno utilizzando quello che è un meccanismo abbastanza infame e subdolo, che è quello dello sfratto a sorpresa, per cui si passa praticamente da dei rinvii con l'ufficiale giudiziario all'ultimo rinvio, che praticamente avrai lo sfratto in un giorno a sorpresa, che non si sa, per cui una mattina possono arrivare la polizia, l'esercito a buttarti fuori. E un'altra cosa che sta succedendo e che è successa negli scorsi mesi è che addirittura l'assessorato ha fatto girare una circolare interna ai servizi sociali, per cui praticamente loro non hanno più strutture, perché la legge prevede che donne, diciamo, e bambini almeno siano tutelati dal servizio sociale per una sistemazione di emergenza. Addirittura siamo arrivati al punto in cui dagli sfratti praticamente dall'alto, dal comune, non arriva nulla. Però noi siamo determinati comunque a credere che agli sfratti si debba e sia necessario resistere fino in fondo. Cioè, uscire di casa per andare in mezzo alla strada non ha senso, per cui a Novoli, come in tutta la città, noi facciamo una lotta che parte dal presupposto non si esce di casa senza soluzione. Ovviamente questo lo si fa anche con le proteste, siamo stati all'assessorato la scorsa settimana, in Palazzo di Parte Guelfa. Il problema è che l'amministrazione non vuole cedere, ha fatto muro o blocco su questa tematica, ma dall'altra ha anche paura di quelle che possono essere le reazioni, perché comunque lo sfratto a sorpresa è vero che stanno utilizzando questa cosa, ma ha più un significato di ricatto, diciamo, verso le famiglie, cioè di mettere in una soggezione psicologica di paura, però poi nei fatti comunque noi stiamo resistendo, perché le famiglie che comunque sono organizzate col comitato dentro le case ci stanno molto, però ovviamente qui noi dobbiamo essere in grado di sbloccare un attimo questa situazione, perché il comune deve scendere, non dico a compromesso, però deve avere, noi dobbiamo riuscire a un'interlocuzione, a far sì che si prenda, cioè che siano loro che si prendano a carico del problema dell'emergenza abitativa, perché, cioè, voglio dire che noi non possiamo dallo sfratto passare all'occupazione, cioè questa è una cosa che i movimenti per la casa, cioè, nel senso, nel tempo si è fatta, però noi vogliamo veramente che il problema dell'emergenza abitativa sia risolta dal comune, dalle istituzioni, da chi deve garantire quello che è un diritto al tetto. E ci sono degli esempi significativi di difesa degli sfratti nella zona nord-ovest, difesa nei mesi scorsi, oppure difesa nei mesi a venire da questo? Sicuramente c'è la situazione di Castelnuovo Tedesco, e comunque, come dicevo prima, sono questa situazione di sfratti collettivi che avverrà appunto nel mese di marzo, su cui si dovrà fare battaglia. Poi ci sono varie famiglie in varie situazioni, su Novoli, Rifredi, c'è sicuramente una famiglia a Rifredi che appunto ha lo sfratto a sorpresa, una persona molto attiva nel comitato in via Mariti, su cui anche lì si dovrà dare battaglia, chiedere appunto la casa popolare, l'inserimento nella graduatoria di emergenza per la casa popolare. Sono tutti percorsi, diciamo, aperti. Di significativo, molto, c'è stato uno sfratto, diciamo, nella zona di sulla Bolognese, dove una famiglia italiana con due figli ha resistito per oltre 8-9 ore, appunto la mattina dello sfratto a sorpresa, per cui loro sono arrivati esercito, polizia, carabinieri la mattina lì, e questa famiglia si è barricata in casa, dato veramente prova di resistenza, di alta resistenza, perché per 8 ore si è asserragliata dentro la casa a dire noi non usciamo finché non viene garantito almeno un diritto minimo, per cui poi i compagni sono arrivati solidali, si è bloccata la strada, siamo stati lì cioè tanto tempo, è stata veramente una prova di resistenza, finita anche con l'arresto, quando poi la polizia alla fine è riuscita a entrare nella casa, perché alla fine sono stati arrestati, cioè nel senso arrestati una notte in questura l'anno passata, e sono usciti con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale praticamente, perché gli hanno lanciato roba dietro eccetera. Dopodiché c'è stato un processo, c'è stato l'altra mattina a 9 del tribunale, per cui noi abbiamo fatto un corteo degli sfrattati, degli occupanti, dalla sede nostra che è in piazza Puccini fino al tribunale, come prova di solidarietà e soprattutto per dire che i criminali non sono certo le famiglie che resistono, ma che i criminali sono questo stato di cose criminale. Sono stati assolti due persone, un'altra è stata condannata a 8 mesi per aver resistito, per cui il messaggio che vuole essere lanciato è quello che appunto i criminali sono chi lotta. Invece noi vogliamo ribaltare completamente questo messaggio, perché cioè criminale è veramente chi specula sulla città, chi devasta i territori, chi permette un mercato degli affitti libero che schiaccia e stritola le famiglie, e chi non si adopera per utilizzare i soldi pubblici che ci sono per l'emergenza abitativa, ma gli preferisce utilizzarli per la mafia dell'accoglienza, per le grandi opere inutili che devastano soprattutto i territori periferici di Novoli eccetera. E niente, comunque andremo avanti e... Faccio un attimo un passo indietro, quindi rispetto all'ultima occupazione in via Baracca, sì, in cui sono presenti sgomberati da un'occupazione in via Luca Giordano, mi sembra, sì. Via Luca Giordano, che a sua volta era un'occupazione in cui c'era anche una certa società, una parte sociale, insomma, una parte dell'occupazione veniva da parte sociale, sì. Ma soprattutto c'era una soggettività, diciamo, di immigrati che erano stati privati di loro diritti, insomma, ecco. Ora la situazione dell'occupazione, sono presenti gli stessi immigrati, se ne sono aggiunti altri, c'è una trattativa in corso con l'amministrazione comunale dal punto di vista del riconoscimento dello status di rifugiato politico, oppure niente? Allora, cioè, a livello di vertenza, riconoscimento, niente, nel senso che il comune non ha, cioè noi avremmo voglia di trattare per delle soluzioni abitative dignitose, il problema è che dall'altra parte non arriva nulla, arriva gli sgomberi e un calcio nel culo. Questi rifugiati politici sono un gruppo, diciamo così, compatto, nel senso che sono un gruppo di rifugiati storico e vive nelle occupazioni da anni, perché sempre in questo meccanismo di dentro e fuori dal sistema dell'accoglienza, cioè il sistema dell'accoglienza rispetto ai rifugiati politici è un sistema che fa i soldi sulle spalle dei migranti, e questo è il punto. Prendono le persone, le mettono in queste strutture sovraffollate, inutili, che non ti insegnano nulla, che non ti danno avviamento al lavoro, per fare i soldi per le cooperative, quando scade il tempo, fuori, e finisce lì. Per cui queste persone vivono in via Luca Giordano, erano persone che erano in Italia da 10-15 anni, e che molto spesso... Cioè, c'hanno tutto un problema legato ai documenti, perché le persone spesso neanche vogliono stare in Italia, o comunque vorrebbero il ricongiungimento familiare, magari con parenti che stanno in Svezia, Scandinavia, e che lo stato di cose, accordi internazionali, diciamo, sull'immigrazione, non gli permette. Per cui queste persone vivono purtroppo in questa condizione precaria. E parlavi prima dello sportello antisfratto, quindi se qualcuno vi vuole contattare... cosa deve fare? Sì, assolutamente sì. Noi facciamo lo sportello, diciamo, che non è soltanto per gli sfratti, lo sportello è sul diritto alla casa in generale, per cui situazioni anche di caro affitti, affitti a nero, assistenza rispetto a tutte queste situazioni qua, e chi è in emergenza abitativa, e che si fa il martedì dalle 4:30 alle 7 più o meno, appunto in via Baracca 18, che è appunto attaccata a Piazza Puccini, questa occupazione che è anche uno spazio sociale, uno spazio per le assemblee. Dallo sportello si passa, diciamo, poi a chi ha voglia di fare questo percorso, dentro quello che è un comitato apposito di inquilini che si dà solidarietà fra di loro, che è il comitato inquilini, che poi si ritrova a sé, che difende gli sfratti e lotta per le soluzioni a questo problema. Beh, ti ringraziamo e ricordiamo che Passaggio a Nord-Ovest lo potete ascoltare, oltre in diretta il lunedì alle 14, potete ascoltare in replica sempre su Radio Wombat chiaramente, il martedì e il giovedì alle ore 13 e il mercoledì e il venerdì alle ore 14. Potrete inoltre riascoltarlo, se perdete anche le repliche non le potete ascoltare perché in un orario appunto non consono per voi, lo potete riascoltare con podcast andando alla sezione podcast del sito di Radio Wombat, che è wombat.noblogs.org, e scorrendo dal menu podcast e arrivando fino a Passaggio a Nord-Ovest potete riascoltarvi i podcast di tutte le trasmissioni. Alla prossima, ciao ciao ciao.